Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Buongiorno, questa è Focus Economia, non condotta da Sebastiano Barisoni, come aveva detto erroneamente la sigla, ma da Enrico Brivio oggi qui in console. Oggi parleremo di borse che hanno riacquistato un tono abbastanza sereno grazie alle notizie di una ripresa europea, l'uscita della recessione dell'Eurozona con buoni segnali dalla Germania, anche dalla Francia, uno spread che è tornato su livelli sotto i 240, quindi molto bene e abbastanza rassicurante anche per quanto riguarda l'Italia, con effetti positivi sui titoli bancari. Poi parleremo anche di Stati Uniti e della strana situazione ora della borsa di Wall Street, un po' titubante negli ultimi giorni per l'andamento della politica monetaria americana, ma con anche segni di vitalità tuttora, con Blackstone che ha effettuato importanti investimenti, con il finanziere Carl Icahn che ha investito, si dice, oltre 1 miliardo su Apple. E poi ancora andremo anche a vedere le ricadute economiche di questa drammatica crisi egiziana. Ma comunque partiamo con le notizie in breve. E cominciamo come di consueto dalle materie prime. L'oro è salito oggi a $1,328 l'oncia, più 0,6%, mentre il petrolio in calo a $106,5 al barile a New York, ovvero al meno 0,3%. E per quanto riguarda l'economia internazionale, ecco alcune notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Il presidente Obama si è schierato contro la fusione tra US Airways e l'American Airlines, cioè un affare da $11 miliardi, un'operazione che dovrebbe dare vita alla compagnia aerea più grande al mondo. È chiaro che, come sapete, negli Stati Uniti si cerca sempre di essere molto attenti alla concorrenza. C'è stato quindi un intervento di Obama che potrebbe essere controverso per bloccare questa fusione, questa mega fusione. Altre operazioni indicano però vitalità nel mercato americano, con Blackstone, questo fondo che è il braccio finanziario della conglomerata General Electric, che ha effettuato la più grande scommessa sugli appartamenti in affitto da quando è scoppiata la crisi finanziaria del 2008. Ecco che quindi si torna a credere nell'immobiliare negli Stati Uniti. Vedremo se sarà una scommessa vincente. È un'operazione valutata a $2,7 miliardi. Gli edifici sono circa 30.000 unità abitative che si trovano ad Atlanta, in Georgia, Dallas, altre parti del Texas e della parte sud-orientale degli Stati Uniti. Quindi il mercato immobiliare in affitto è uno dei protagonisti, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto, il settore residenziale, è uno dei protagonisti della ripresa, sostenuto dalla domanda di tutte quelle persone che non riescono a comprare la casa. Quindi, diciamo, se i mutui subprime avevano generato quella crisi tremenda del 2008, ora ecco che Blackstone invece punta sulle case in affitto. Vedremo se sarà una scommessa vincente o meno. E poi il Bund al tasso 1,80%, top dal febbraio 2012, e quindi questo ha aiutato anche a colmare lo spread tra il BTP e il Bund, che è arrivato addirittura a 235, ora 237, insomma comunque un livello abbastanza rassicurante, ben al di sotto della quota di 240 punti che era stata valicata qualche giorno fa. E poi notizie che riguardano Apple. Apple, ci abbiamo due tipi di notizie. L'una riguarda il gigante che produce gli iPhone, che ha potuto beneficiare di un investimento da parte di Carl Icahn, un finanziere di quelli veramente arrembanti degli anni 80, un po' alla Geco, no? Mi ricordo la sua battaglia per scalare TVA. Ora ha investito 1 miliardo su Apple, contribuendo a portare il titolo ai massimi degli ultimi 6 mesi. Dall'altra parte però c'è un'altra storia in Italia non proprio molto edificante per Apple, perché sono andati a consultare i conti dell'Apple e si è visto che in Italia Apple paga solo 3 milioni al fisco, perché è in rosso, ovvero questo gioco che molte multinazionali fanno di convogliare i profitti verso quelle piazze dove la fiscalità è più leggera, ovvero l'Irlanda. E mentre qui in Italia, inspiegabilmente, Apple Retail Italia ha chiuso in perdita, nonostante nel 2012 abbia praticamente raddoppiato le vendite da 127 a 250 milioni di euro, la società ha registrato un rosso anteimposte di 11,5 milioni, in forza del quale ha lasciato a secco il fisco italiano. Ad affondare gli Apple Store non sono stati però i costi, ma il fatto appunto di aver ricondotto alcune voci all'acquisto dalle sorelle irlandesi dei prodotti commercializzati nel nostro paese. Così, mentre in Irlanda il gruppo di Cupertino continua a macinare miliardi di profitti sottoposti ad aliquote fiscali molto basse, in Italia i negozi vanno in rosso. E quindi questo è un problema per il fisco italiano. Sappiamo che di fiscalità internazionale e di forme così di elusione internazionale si occupa spesso il G8, si parla molto di cercare di arrivare ad un'uniformità di trattamento, però fino a che in Europa ci saranno trattamenti fiscali diversi, ci sarà anche la tentazione di questi colossi di sfruttare nel modo più conveniente queste differenze, anche se, diciamocelo, non è obiettivamente giusto che Apple, che fa poi molti profitti in Italia, non lasci il suo contributo al fisco italiano. Lavoro, la nuova occupazione è soprattutto, deriva proprio dalle piccole imprese. Questo è quanto deriva da uno studio della CGA di Mestre, cioè che ha stabilito che il 64% dei nuovi posti di lavoro è stato creato dalle piccole imprese, al netto degli addetti del pubblico impiego e dell'agricoltura. Quindi tra il 2001 e il 2011 le imprese con meno di 50 addetti hanno creato più del doppio dei posti di lavoro prodotti dalle grandi aziende. Ecco un sintomo della vitalità delle piccole imprese italiane, ma come sappiamo anche un campanello di allarme per quanto riguarda le aziende di dimensione ampia o media, insomma, che dovrebbero essere poi costituire altrettanto l'ossatura del paese e dargli la forza, soprattutto in chiave di export. Un altro dato sempre sul lavoro: lavora con la laurea solo 2 dipendenti su 10. Qui l'Italia, ahimè, è l'ultima dell'Unione Europea. In Italia meno di 2 lavoratori dipendenti su 10 sono laureati, contro una media europea di 3 e punti di 4 su 10 in Gran Bretagna e Spagna. E quindi, tra l'altro, questo studio che è stato svolto da Union Camera, un rapporto Union Camera 2013, i lavoratori italiani dotati di laurea svolgono attività spesso che richiedono competenze minori, un fenomeno in forte aumento negli ultimi anni. Vi ricordo poi che potete inviare gli SMS al 349-238-6666 e ora andiamo ad affrontare il primo tema di approfondimento, ovvero l'Egitto nel caos. Ora, chiaramente la situazione è drammatica, lo avete sentito nei notiziari del GR, si parla di centinaia di morti, il ministro della salute egiziano ha parlato di 95, fonti della France Presse contano 125 morti, insomma il bilancio delle vittime degli scontri in corso in tutto il paese è tremendo, tra l'altro tra le vittime anche un operatore di Sky News, un giovane reporter degli Emirati, e quindi i morti sono sia tra la polizia che tra i civili, hanno precisato dal Ministero della Salute, però chiaramente si tratta di una situazione drammatica. Ora, sulle vittime, insomma, delle vittime si è parlato. Noi, ovviamente, essendo un programma di economico, ci soffermiamo un attimo anche sulle quali possono essere le conseguenze dal punto di vista economico di questo tragico dramma. E ci colleghiamo ora con Ugo Tramballi, che è il nostro inviato del Sole 24 Ore, che conosce molto bene l'Egitto. Buonasera, Ugo. Buonasera. Allora, c'è questa situazione drammatica, come diciamo, ovviamente la prima pagina e tutta la nostra attenzione va soprattutto alle vittime, però ci possiamo anche interrogare su quali sono le conseguenze da tutti i punti di vista di questa situazione in ebollizione e tragica in Egitto. E visto che nel paese è stato dichiarato lo stato di emergenza per almeno un mese, a partire dalle 16 di oggi. Ecco, la banca centrale ha poi annunciato la sospensione di tutte le operazioni bancarie a partire da domani, mentre per le operazioni di borsa fonti locali parlano di un inizio delle operazioni all'inizio della prossima settimana, ma insomma ovviamente tutto in sospeso. Ecco, da un punto di vista economico, un paese importante come l'Egitto che si trova in questa situazione così drammatica, ecco, quali possono essere le ricadute di un congelamento anche dell'attività economica di questo paese? Quelle cose decise dalla Banca Centrale sono atti dovuti data la situazione e non renderanno più difficile la situazione economica, che è già difficilissima da un mese ma anche da vari mesi. Non c'è praticamente alcuna attività economica concreta e per di più da mesi e mesi, non solamente da oggi, da quando è stato ordinato anche il coprifuoco, tra l'altro, che comincerà questa sera, sarà per tutte le notti, per tutti i prossimi forse 30 giorni. Tutta la trattativa, per esempio, per il credito del Fondo Monetario di quasi 5 miliardi è ferma, appunto, è congelata da mesi, non se ne parla più da diversi mesi. Non solo, ma anche tutti gli aiuti dei paesi arabi del Golfo che sono stati promessi in questo ultimo mese, si parla di qualcosa come un totale di circa 20 miliardi di dollari, in realtà di questi soldi ne sono arrivati pochissimi e certamente adesso in questa situazione, finché non si normalizza, nemmeno la solidarietà del mondo arabo ricco arriverà in Egitto. Le imprese straniere non operano da tempo, quelle che sono certamente non ci sono da mesi e mesi nuove iniziative, e quelle che esistono già, soprattutto le moltissime imprese italiane, le più grandi imprese italiane che hanno investito direttamente in Egitto, sono in condizioni estremamente difficili perché non possono operare, ma per di più hanno, con qualsiasi regime prende il potere in Egitto, hanno comunque sempre dei contenziosi che rischiano di mettere in pericolo completamente la loro attività. Quindi una situazione paralizzata, tra l'altro ovviamente in questa situazione anche quella che era una delle fonti di introiti dell'economia egiziana, quale il turismo, per ovvi motivi viene totalmente paralizzata, no? Beh sì, il turismo aveva ripreso in qualche modo, non certamente non al Cairo, non attorno alle piramidi, ma sul Mar Rosso, in questi centri ci sono i resort, un po' il turismo quest'estate era ripreso, ma certamente andiamo per deduzione, ma è quasi certo che molti turisti che avevano deciso di andare anche in quei luoghi molto protetti avranno rinunciato e quindi renderanno la situazione economica anche per la principale fonte di introito di valuta pregiata, il turismo, ancora prima del canale di Suez, sarà ulteriormente aggravata, quindi anche con la difficoltà di trovare nuovi posti di lavoro, aumenta sicuramente, continua ad aumentare sicuramente la disoccupazione, ma è questo un po' su quello su cui giocano i militari e il governo nominato dai militari, appunto per spingere, diciamo, la grande maggioranza silenziosa degli egiziani dalla loro parte. Vogliono ordine, vogliono tranquillità, vogliono che l'economia riprenda. I Fratelli Musulmani anche l'anno scorso, quando hanno governato, hanno dimostrato una assoluta incapacità di affrontare questi problemi, ma ora la situazione è ancora più estremamente difficile e complicata. Ecco, un ascoltatore ci manda un sms: qual è il ruolo degli Stati Uniti, storici finanziatori dell'Egitto, in questa situazione? Gli Stati Uniti sono storici finanziatori delle forze armate più che dell'Egitto, garantiscono quasi $1,5 miliardi all'anno alle forze armate, aiuti diretti che non passano nemmeno attraverso lo Stato, non passano attraverso il bilancio nazionale, ma vanno direttamente ai militari che controllano loro come usare questo denaro. Il ruolo degli Stati Uniti in questa crisi è scarso, ma quello anche dell'Unione Europea. Del resto è difficile pensare cosa avrebbero potuto fare, è una questione egiziana, qualsiasi tentativo di interferenza a favore dell'uno, a favore dell'altro sarebbe stato visto appunto come, e giustamente come, non solo un'interferenza, ma come dire, un rischio. È difficile pensare che gli Stati Uniti possano, come anche l'Unione Europea, qualsiasi pressione internazionale possa modificare una situazione che oggi è sul terreno. Del resto, come tutte le primavere arabe, se vogliamo ancora chiamarle primavere naturalmente, i protagonisti non sono più gli americani o gli occidentali, i protagonisti sono gli attori sul terreno, sono appunto l'Arabia Saudita, i fratelli musulmani, l'Iran, la Turchia, non più i grandi paesi, non più la grande superpotenza americana. E del resto, se gli Stati Uniti avessero tentato di interferire in maniera forte per cercare anche, come dire, in buona fede di calmare la situazione, noi oggi saremmo qui a criticare l'interventismo degli Stati Uniti. Bene, grazie mille a Ugo Tramballi che ci ha aiutato a leggere questa situazione così complessa e drammatica in Egitto. Ed ora cambiamo completamente pagina, passiamo a parlare di Europa, dell'Europa che pare comincia a vedere la luce della ripresa e esca dalla recessione. Secondo la stima flash di Eurostat, nel secondo trimestre 2013 il PIL è cresciuto dello 0,3%, primo dato positivo dopo 6 trimestri consecutivi in calo, quindi un dato indubbiamente positivo, soprattutto con una Germania che ha fatto segnare un più 0,7% rispetto al trimestre precedente e una Francia anche meglio delle aspettative allo 0,5%, mentre l'Italia, ahimè, resta con un segno meno 0,2%. Appunto delle prospettive dell'economia europea e dell'Eurozona parliamo ora con Mario Seminerio, economista, creatore del blog Fastidio e autore del libro La cura letale. Chi sta facendo fallire l'Italia e come l'Europa sta peggiorando le cose. Ecco, Seminerio, buonasera innanzitutto, ma le cose stanno veramente peggiorando, insomma sembra in realtà che ci sia qualche segnale di miglioramento. Buonasera, sì, se lei intende che le cose stanno peggiorando riferendosi al titolo e al sottotitolo del mio libro, il libro è uscito il 31 di ottobre, quindi da allora è cambiato qualcosa, anche se non necessariamente in meglio. Per quanto riguarda la situazione odierna, diciamo il dato di oggi, dopo 6 trimestri consecutivi di calo, abbastanza così, che hanno massacrato l'economia del continente e che stavano arrivando a lambire, diciamo, anche il cuore, cioè la Germania, ora siamo di fronte a dei dati che sono sicuramente confortanti, per quanto sono estremamente variegati da paese a paese, e questo si vede. Il problema è quanto potrà durare. Diciamo, le previsioni di secondo semestre allo stato attuale non sono particolarmente eclatanti, diciamo, dovrebbe esserci una certa moderazione. Questo secondo trimestre potrebbe avere rappresentato un picco, diciamo, di crescita, un sussulto di crescita, anche perché lo scorso autunno si era verificato comunque una vera e propria gelata, e ora bene o male, ad esempio, si stanno ricostituendo le scorte. Quindi che cosa voglio dire con questo ragionamento? Che serve prudenza, moltissima. Ci sono ancora paesi come l'Italia che hanno variazioni negative, per quanto sono migliori del previsto, siamo ancora in un contesto di derivata seconda, cioè la crescita, la caduta sta rallentando, ma non si può ancora parlare di crescita. E ci sono altri paesi invece, come per esempio l'Olanda, che sono apparentemente in una situazione molto problematica, e l'Olanda, come sappiamo, è il cuore delle triple A europee, quindi bisognerà veramente attendere i prossimi trimestri, i prossimi mesi, per capire se è un'inversione di tendenza o è semplicemente un effetto statistico che ci porterà solo apparentemente fuori dai problemi? Ecco, un ascoltatore ci scrive: ah, se fosse quel famoso sintomo del miglioramento prima della morte, ma speriamo di no, che anzi ci si avvii su un sentiero di crescita per l'Europa. Ecco, anche il commissario europeo agli affari economici monetari, Olli Rehn, è stato cauto, ha detto: l'economia europea sta gradualmente guadagnando slancio, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Rehn ha osservato che si stanno confermando le previsioni di primavera della Commissione europea di una lieve ripresa nella seconda parte del 2013 e che e ne trova conferma quindi della giustezza della risposta europea alla crisi. Un mix di politiche combinino la costruzione di una cultura della stabilità con il perseguimento di riforme strutturali che supportino la crescita. Ecco, lei è d'accordo che ci siano stato un mix giusto da parte europea, perché molti invece la pensano diversamente? Ma io temo che nella dichiarazione di oggi di Rehn si può essere d'accordo circa il fatto che non è ancora il momento di festeggiare, perché questo dato di per sé non rappresenta l'inversione di tendenza. Poi la seconda parte della dichiarazione, quella sul cosiddetto mix giusto di politiche, credo che sia più che altro propaganda, perché credo che Rehn, diciamo, rappresentando anche gli interessi di un certo tipo di ortodossia di politica economica europea, diciamo, sino ad ora abbia sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Abbiamo visto gli effetti assolutamente distruttivi dell'austerità su tutto il continente, abbiamo visto anche che nel contempo c'è un credit crunch bancario che è frutto, diciamo, in parallelo di altre situazioni, cioè il fatto che le banche europee sono ad un grado di leva eccessivo e comunque dovevano rientrare, per cui miracoli non se ne possono fare, ma la situazione di austerità generalizzata ha finito col creare un circolo vizioso che si è intersecato con la situazione delle banche e sta facendo peggiorare tutto. E poi sul piano delle riforme di struttura, in tutta franchezza io non vedo riforme di struttura così rilevanti. Ad esempio, se penso al nostro paese, non le vedo proprio. Il nostro paese ha perso molto tempo, diciamo, cercando di inseguire un pareggio contabile attraverso un'austerità molte volte anche cieca e scomposta, dettata dall'urgenza e dall'emergenza, ma di vere riforme strutturali, con l'eccezione della riforma delle pensioni, che per quanto importante è solamente uno degli elementi da utilizzare, non le vedo. Quindi, sinceramente, io tutte queste riforme strutturali non le vedo, vedo tutta una serie di errori che sono stati fatti negli ultimi mesi o negli ultimi anni, quindi la dichiarazione di Rehn, per quanto mi riguarda, lascia un po' il tempo che trova. Sì, Rehn ha anche detto, ha lanciato questo appello ai politici dal suo blog a non mollare sulle riforme, dicendo: bisogna mantenere ferma la barra delle riforme economiche, della riduzione della montagna del debito, sia pubblico che privato, e della eliminazione delle scappatoie in cui banchieri irresponsabili e politici miopi prosperano. Ecco, alcuni poi, appunto, tra i politici miopi ci aggiungono anche Rehn e altri politici europei, però appunto non c'è dubbio che non ci sia stata una grande esibizione di lungimiranza negli ultimi mesi da parte europea, no? No, direi proprio di no. Peraltro, se questo piccolo segnale, diciamo, di inversione di tendenza dovesse consolidarsi nei prossimi trimestri, l'effetto immediato sarebbe ovviamente un miglioramento generalizzato dei conti pubblici, si creerebbero delle risorse fiscali. Ora, in un paese, diciamo, che riflette sul proprio avvenire, queste risorse fiscali dovrebbero essere probabilmente utilizzate per ridurre il peso delle imposte. In un paese che riflette molto meno sul lungo periodo e molto più su cicli elettorali ravvicinati come l'Italia, cominceremo a sentire ossessivamente il termine tesoretto e cominceremo ad avere soldi letteralmente buttati dalla finestra. Però se quando dovesse ripartire la crescita, diciamo, e prodursi anche risorse fiscali, bisognerà ragionare veramente su riforme strutturali, perché le riforme strutturali si possono fare solamente quando c'è una situazione di economia che, non dico è prospera, ma che non si contrae in una maniera depressa e depressiva, come invece abbiamo visto e per molti aspetti stiamo ancora vedendo noi italiani. Quindi sì, era stare attenti a cogliere l'opportunità se e quando dovesse materializzare. Non c'è dubbio. Le giro un'ultima domanda che mi è arrivata da un ascoltatore: ma com'è possibile che in un debito in aumento a 2.075 miliardi lo spread scenda a 238? A quando il crollo? Ecco, cosa rispondiamo a questo? Il problema del debito è la sostenibilità rispetto alla crescita del prodotto interno lordo. Per molti aspetti, diciamo, questo è un elemento che, se i tassi sono cedenti, la possibilità che questo debito pubblico risulti sostenibile aumenta, per cui sì, mi rendo conto che quando si ha un debito PIL al 130%, se il paese non si mette a crescere ad un passo almeno decente, il rischio di insostenibilità del debito esiste, però io non guarderei solamente quello che succede giorno per giorno, guardiamo la sostenibilità. Lo spread oggi, in questi giorni, è frutto soprattutto del rialzo dei rendimenti sul Bund, non dimentichiamolo, perché il BTP sta mostrando una certa stabilità e non siamo ancora neppure riusciti a scendere sotto il 4% sul decennale, per cui, ripeto, calma, bisogna seguire i dati e l'evoluzione della congiuntura nostra e internazionale. Grazie a Mario Seminerio, buona serata. Ricordo, economista e creatore del blog fastidio.net, fastidio col PH, perché mi è stato chiesto un SMS di ripeterlo. E quindi io vi saluto e vi lascio alle notizie del meteo e alla pubblicità. Ed eccoci a Focus Economia, io sono Enrico Brivio, vi ricordo il numero per i vostri SMS 349-238-6666 e ora andiamo a vedere un po' più in dettaglio le notizie di borsa. Allora, la giornata di borsa è stata piuttosto tranquilla, soprattutto in Europa, ovviamente con un volume di contrattazioni piuttosto limitato. Comunque il FTSE All Share è salito dello 0,38%, il FTSE MIB dello 0,48% ed ha beneficiato di un calo dello spread che è sceso attorno a 2,37-2,35, quindi sotto la quota di 240, grazie anche all'aumento in effetti dei rendimenti tedeschi. Invece, per quanto riguarda la Germania abbiamo avuto un aumento dello 0,27%, in Francia dello 0,53%, anche grazie alle notizie che abbiamo visto confortanti sulle economie dei due paesi, mentre a Londra c'è stato un passo indietro del meno 0,22% e il Dow Jones e il Nasdaq sono scesi invece negli Stati Uniti, meno 0,42% in questo momento il Dow Jones, meno 0,24% il Nasdaq. Qui pesano, come sappiamo, le incognite sulla politica monetaria americana, sul suo futuro, sulle possibilità di allentamenti. Ma per andare adesso un pochino più in dettaglio a capire i meccanismi e cosa è successo oggi in borsa, ci colleghiamo con Guido Maurino di Radio Core Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, una giornata piuttosto tranquilla, mi pare, all'insegna di uno spread su livelli rassicuranti, giusto? Sì, oggi è stata veramente una vigilia di Ferragosto anche per le borse. C'è stato ancora questo tema dello spread che va avanti da alcune sedute e di cui stanno continuando a beneficiare un po' tutti i titoli bancari. Oggi abbiamo visto in particolare il Banco Popolare che è avanzato soprattutto nel finale, chiudendo a più 4,4%, ma si sono mosse bene anche diverse altre banche, in particolare UBI più 3%, Monte dei Paschi di Siena più 2,76%, la Popolare di Milano più 2,52%. È ancora stata una giornata, diciamo, dominata soprattutto dal settore bancario e da questo spread che continua a consentire ai titoli di apprezzarsi. E che quindi ha tirato la volata, insomma, a tutti i bancari. Ecco, anche TODS è salita, quindi ci sono segnali comunque positivi nel settore del lusso o riguardavano TODS in particolare? Ci sono segnali un po' positivi un po' su tutto il settore del lusso nella giornata di oggi. TODS con questo più 0,7% tocca nuovi massimi storici e durante la giornata ha superato anche quota 145 euro per azione, ma è stata una giornata appunto positiva un po' per tutto il lusso e in particolare anche per Brunello Cucinelli, che è fuori dal listino principale e ha guadagnato il 3,75%. E nel comparto assicurativo invece ho visto Generali che è salita, no? Sì, Generali ha guadagnato l'1,24%. Ieri sera a borsa chiusa Fitch ha confermato il rating ad A- per il gruppo assicurativo con outlook negativo. Fitch ha confermato questo giudizio sulla base dei risultati del primo semestre del 2013 con minori svalutazioni e un forte focus del nuovo management a preservare il capitale e a ridurre il debito, come ha sottolineato l'agenzia di rating nella nota. E sull'onda di questa indicazione arrivata ieri da Fitch, Generali oggi ha guadagnato ed è stato fra i migliori del comparto assicurativo. E mentre invece Finmeccanica, vedo che è scesa, anche mentre era salita bene nelle ultime sedute, no? Sì, nelle ultime 4 sedute il titolo aveva complessivamente guadagnato il 14%. All'inizio, dopo che Letta aveva fatto quell'annuncio su un nuovo piano di privatizzazioni in arrivo in autunno, poi sulle indicazioni emerse di una possibile alleanza in Russia sul settore degli elicotteri, notizie entrambe positive per il titolo che avevano spinto gli acquisti, oggi alcune prese di beneficio che in qualche modo possono anche essere naturali, hanno fatto sì che il titolo cedesse lo 0,42%. E anche Enel sembra non essere andata molto bene, meno 0,37% Sì, vedo. un meno 0,37% che è spiegabile in gran parte con un report degli analisti di Credit Suisse, hanno fatto uno studio sul settore delle utilities europee e considerano il titolo Enel fra quelli meno preferibili per le opzioni di acquisto, in quanto l'azienda italiana paga le prospettive di un calo del 9% dell'utile, secondo quello che sono le stime degli analisti, per il 2014 rispetto al 2013. Poi altri titoli che non sono andati bene, tra questi c'è Telecom Italia meno 0,49%, cioè qualche motivo No, particolare? nessun motivo particolare, anche su Telecom Italia nei giorni scorsi avevamo visto una serie di acquisti portati anche dall'annuncio dell'OPA di Carlo Slim sull'operatore olandese KPN, ne avevano approfittato nelle ultime sedute un po' tutti i titoli legati al comparto telefonico, oggi un meno 0,49% senza grosse notizie di mercato a riguardare la società, ecco. E anche Tenaris e Atlantia non sono andate bene oggi, meno Sì, Tenaris. Sì, 68, meno 0,76%. per quello che riguarda Atlantia c'è la possibilità che l'Authority dei servizi pubblici dei trasporti dello Stato di San Paolo in Brasile possa avviare un'istruttoria sul metodo di calcolo delle compensazioni nei provvedimenti che hanno allungato le concessioni nelle joint venture che ha appunto il gruppo con il gruppo Bertin in Brasile, una notizia che potrebbe in prospettiva avere anche delle ripercussioni parzialmente negative. Oggi alcuni operatori hanno preferito alleggerirsi sul titolo. Mentre tra i titoli che sono andati bene, vedo A2A che è salita dell'1,25%, no? Sì, A2A è reduce da un buon momento dopo la pubblicazione dei risultati semestrali, ha guadagnato molto, gli operatori restano molto concentrati sulla questione del debito di A2A, e anche A2A è uno di quei titoli che risente molto dei movimenti dello spread, proprio perché ha un debito molto elevato, quando lo spread scende anche A2A tende ad approfittarne. Bene, io allora ringrazio Guido Marurino di Radio Corsole 24 Ore e possiamo cominciare già a lanciare quello che sarà il tema successivo, ovvero l'andamento dei mercati americani. Mercati americani che in realtà oggi sono un pochino più appannati di quelli europei, come dicevamo col Dow Jones a meno 0,40% e il Nasdaq a meno 0,21%. Però si tratta comunque di listini che sono ai massimi massimi, diciamo, hanno toccato qualche giorno fa i massimi storici. E quindi ho qui con me Mario Platero, voce corrispondente sulle 24 ore, voce conosciuta agli ascoltatori di Radio 24 perché conduce America 24. Buonasera Mario. Buonasera Enrico, eccoci. Eccoci. Allora, come vedi la borsa americana un po' appannata, un po' confusa dalle prospettive di politica monetaria della Fed, insomma non si capisce bene cosa farà la Fed. Ma guarda, la Fed continua a parlare, continuerà a parlare anche oggi, più tardi ci sarà un discorso di Jane Bullard che è uno dei governatori della Federal Reserve, parlerà a St. Louis, perché poi per noi tutto sembra che sia fermo, siamo al 14 di agosto, in realtà ovviamente l'America va avanti. L'America continua a lavorare. Va avanti come un treno e ti dirò che da una parte ci sono questi input, queste incertezze. No, la cosa interessante è che Wall Street non sembra aver reagito a queste notizie tutto sommato incoraggianti, positive sul fronte della ripresa europea. Resta molto focalizzata su quello che farà la Fed. E in realtà quello che farà la Fed lo sappiamo, perché Ben Bernanke lo ha detto in mille modi. Se l'economia va avanti, a un certo punto si comincerà a fare il tapering. Se l'economia dà segnali preoccupanti, allora invece si potrà addirittura fare anche di più rispetto a quello che si è fatto finora. Allora, vediamo un po' i dati di oggi. Allora, ti chiederei però di aspettare un attimo, facciamo una breve pausa con le notizie per chi viaggia e poi torniamo ad approfondire la questione dell'economia americana e di Wall Street fra pochi minuti. Questa è Focus Economia, io sono Enrico Brivio, ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666 e sono qui in compagnia con Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, per discutere un po' di vicende americane, di come va l'economia e la finanza americana in questo Ferragosto in cui negli Stati Uniti non ci si ferma come qui in Italia e in Europa, ma le cose vanno avanti. Ecco, dicevi Mario prima della pausa, ci sono degli elementi che indicano una certa vivacità dell'economia e della finanza che fanno ben sperare? Sì, diciamo questo, che Ben Bernanke ha dato un messaggio chiaro, lui ha dato delle linee di massima su come si muoverà ed è chiaro che a un certo punto la Fed comincerà a tirare i remi in barca. E i punti di riferimento riguardano l'andamento dell'economia, l'andamento delle finanze, l'andamento del business, e per ora le cose vanno bene. In teoria lui dovrebbe tirare remi in barca a un certo punto, però i margini secondo il mercato ci sono. È inevitabile che quando a un certo punto la Fed inevitabilmente deciderà di stringere i cordoni della borsa, avremo delle correzioni in borsa. Saranno delle correzioni, secondo me, temporanee, di reazione più psicologica che strutturale a quello che sta capitando, e dopodiché vedremo di nuovo una borsa in ascesa. Perché dico questo? Perché sul fronte macro abbiamo visto che oggi c'è stato un dato sull'inflazione, per esempio questa mattina ci si aspettava che il core dell'inflazione, cioè il tasso centrale di inflazione ponderato, aumentasse lo 0,2%, invece è aumentato solo dello 0,1%, quindi la Fed è tranquilla, è rassicurata da quel punto di vista. Poi vediamo molta attività, perché quando tu vedi che Carl Icahn a un certo punto investe un miliardo di dollari dentro l'Apple Computer, che già aveva fatto prezzi strabilianti, poi come sappiamo ha avuto una correzione piuttosto forte, dà un segnale di enorme fiducia alla però borsa. Tornano in gioco vecchi personaggi, io me lo ricordo con te nei fini anni 80, la battaglia per TVA, questo vecchio raider, è veramente un segnale confortante o anche il segnale che ci sono vecchi squali che si aggirano? Caro mio, squali o no, questo fa il suo mestiere e lo fa bene, perché pensa, parlavo proprio l'altro giorno, adesso ovviamente sono a Milano, ma qualche giorno fa parlavo con qualcuno che aveva lavorato con lui, era cresciuto con lui e si è messo poi per conto suo, perché poi nascono le nuove generazioni e nascono così dalle ali di questi personaggi. gli è andata benissimo con Dell Computer, ha fatto un'operazione simile non più tardi certo. di qualche settimana fa, alla fine ha avuto ragione lui, quindi vecchio o non vecchio, Volpone capito? O no, Volpone o no, le cose poi gli funzionano, ma guarda Blackstone Group che decide di investire svariati miliardi di dollari, mi pare 7 miliardi di dollari, per comprare blocchi di appartamenti, sì. L'idea di creare delle obbligazioni che siano legate ai rendimenti degli affitti, cioè la finanza alla fine continua ecco, ad andare quindi avanti. Non c'è il rischio di un'altra bolla come la mortgage-backed securities, quelle legate ai mutui. Ecco, se si, questa mossa di Blackstone è abbastanza curiosa di investire sull'immobiliare residenziale in affitto, ecco, non c'è il rischio di nuove bolle? Ma guarda, il rischio di bolla ovviamente c'è sempre, e il mercato spinge fino a quando pensa che il rialzo possa esserci. Però in questo momento la situazione è molto più sotto controllo, perché la bolla speculativa sull'immobiliare è rientrata, secondo me, sotto controllo. L'immobiliare si è ripreso bene. L'America ha dato, dal mio punto di vista, una lezione all'Europa di come si gestiscono certe crisi, appunto pompando liquidità sul mercato, cercando di tenere sull'economia e non stringendo la corda dei cittadini, facendoli pagare delle tasse che poi chissà dove vanno a finire questi soldi. Quindi spingiamo la crescita. L'immobiliare in questo momento è sano. Fannie Mae e Freddie Mac, che sono i garanti dello Stato, hanno annunciato qualche settimana fa profitti. Quindi, insomma, le cose vanno bene. Quindi, scusa Enrico, no, ti finisco però con una battuta, perché su questo discorso economia americana. Perché leggevo l'altro giorno qua in Italia, sui nostri giornali, che il Presidente del Consiglio ha annunciato che si venderanno delle auto blu sì. e degli aerei. E diciamo che insomma mi ha colpito per comprare aerei della protezione civile quindi facciamo che la notizia che leggo invece dall'America già di qualche giorno fa è che il cane di Barack Obama a un certo punto era rimasto indietro, sai, ci sono questi i viaggi del presidente sono piuttosto complessi, e hanno organizzato un aereo apposta per lui con due o tre aiuti che lo hanno portato a Martha's Vineyard, dove il presidente è in vacanza. Adesso qualcuno si è lamentato, ma tu pensa se da noi qualcuno organizzasse un volo per il cane, non so se ce l'ha, del Presidente del Consiglio. Anche però in questi momenti di crisi non credo verrebbe preso molto bene un volo del cane. Però in compenso Obama si è schierato contro la fusione tra US Airways e American Airlines, cioè l'affare da 11 miliardi di dollari che dovrebbe far nascere la compagnia aerea più grande del mondo. Ecco, secondo te c'è obiettivamente un problema di concorrenza? È un intervento giusto questo? Ma guarda, non lo so, la notizia di oggi, la fusione, una mega fusione, il pericolo, la paura è che ci sia una caduta della concorrenza e dunque una scarsa competitività da parte dei concorrenti per poter offrire dei prezzi vantaggiosi. Quindi alla fine in operazione di questo genere la Federal Trade Commission, che poi è l'agenzia federale preposta al controllo della concorrenza, si preoccupa che non ci siano dei blocchi che vadano a danneggiare il cittadino o il consumatore, diciamo. L'amministrazione ritiene che questo rischio ci sia, adesso gli altri dovranno dare garanzie. Però già di per sé il segnale che ci sia stata una fusione di queste proporzioni, di nuovo, riflette, se vuoi, fiducia. Quelle poche notizie che ti ho dato prima sono tutte notizie che... Un ascoltatore però ci dice, più scettico, dice, ma tutto questo negli Stati Uniti grazie ai soldi virtuali della Fed. Ma virtuali un corno, scusa se lo dico. Continuiamo a dire questa cosa, la Fed, la bolla speculativa, l'America che continua a gonfiare. E questi hanno fatto una tradizionale politica keynesiana, e quindi una politica monetaria e fiscale per sostenere l'economia. L'avessimo fatta noi, non abbiamo potuto farla perché apparteniamo all'Europa e quindi a un contesto molto più complicato, forse oggi staremmo meglio. C'è stata una polemica l'altro giorno tra Paul Krugman a distanza e Milton Friedman. Ecco, Milton Friedman è un po' in decadenza fra i repubblicani, il grande monetarista per il libero mercato. Milton Friedman dice: quando un paese è in difficoltà, cioè l'Italia, deve usare la svalutazione competitiva. Noi non possiamo usarla. Che cosa usiamo? Lo domando a questi ascoltatori che protestano contro l'America. Bene, grazie a Mario Platero che ci ha, quindi hai rassicurato che sotto l'ombrellone non ci sarà quindi un ottobre nero, non ci sarà un crollo di Wall Street. Speriamo, adesso voglio dire, speriamo di no, vediamo cosa succede in Egitto. Oggi, sic stantibus rebus, diciamo, siamo ottimisti. Grazie a Mario Platero e noi invece andiamo a parlare di un'altra iniziativa che troverete domani in edicola, lancio speciale di Ferragosto, perché il Sole 24 Ore avrà uno speciale di 6 pagine dedicato a tutto quello che è cambiato, cosa è cambiato davvero, cosa no, a partire da quando con i provvedimenti del governo Letta. E abbiamo qui con noi Matteo Prioschi del Sole 24 Ore che ha contribuito a creare questo inserto. Ecco, quali sono le novità più importanti che toccano la vita e le tasche di tutti? La novità più importante di questo inizio estate, anzi estate ormai quasi inoltrata, riguardano soprattutto il fisco, la casa e il lavoro, e sono tendenzialmente figli di 3 provvedimenti, il decreto del fare, il decreto sull'ecobonus e il decreto lavoro, che sono stati varati nelle scorse settimane dal governo. Le novità principali per quanto riguarda la casa riguardano ad esempio la proroga degli incentivi, delle detrazioni per chi fa dei lavori di ristrutturazione più o meno consistenti nella propria casa. C'è la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 50% delle spese in un arco di 10 anni. Questa misura era già stata prevista l'anno scorso e con gli ultimi provvedimenti è stata prorogata fino al dicembre di quest'anno. Così come, sempre per quanto riguarda la casa, è stata innalzata la soglia di detrazione dal 55 al 65% per i lavori legati all'efficienza energetica. Quindi anche in questo caso, diciamo, per quanto riguarda la casa in modo particolare, c'è la possibilità di scegliere tra più opzioni in base ai lavori che si vogliono effettuare qual è l'agevolazione che dà i maggiori vantaggi. Con l'ultima novità appunto legata ai decreti di inizio estate, sono state introdotte le agevolazioni anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici legati appunto alla ristrutturazione dell'abitazione. Ecco, una novità che poi tocca un po' tutti riguarda le multe, no? C'è uno sconto per chi pagherà le multe subito, però bisogna stare molto attenti anche a pagare i centesimi, giusto? Sì, esatto. Una delle novità che fa il suo debutto con questi provvedimenti riguarda la possibilità, qualora diciamo la gente che ferma l'automobilista sia dotato di POS, l'apparecchiatura per pagare con le carte di debito o di credito, di beneficiare di una riduzione del 30% della sanzione. Poi qua abbiamo scoperto che in base diciamo a alcuni mancati coordinamenti diciamo così legislativi, la riduzione in realtà non va fatta in base alla regola dell'arrotondamento, quindi l'importo che uno si troverà a dover versare sarà quello esatto e non bisognerà compiere l'errore di arrotondarlo come per tutte le altre diciamo sanzioni ordinarie, altrimenti si perde proprio la possibilità di beneficiare dello sconto, nonché anche della sanzione ridotta, ma si dovrà andare a pagare l'intero importo previsto dalla normativa. Poi ci sono novità anche riguardanti i tirocini all'università, giusto? Allora, sul fronte del mondo del lavoro sono stati fatti diversi interventi appunto previsti dal decreto lavoro appena convertito in legge dal Parlamento. Ci sono novità per quanto riguarda appunto i tirocini e l'apprendistato, sono due strumenti volti a favorire diciamo il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro appunto. Per quanto riguarda i tirocini in modo particolare, sono stati messi a disposizione dei fondi che andranno a finanziare l'attività nel mondo, nell'ambito della pubblica amministrazione e dell'università. Bene, grazie a Matteo Prioschi. Quindi tutte queste novità le troverete domani in edicola, uno speciale di 6 pagine nel Sole 24 Ore di Ferragosto. Noi domani non ci sentiamo a Focus Economia, ma ci sentiremo il 16 con una puntata speciale. Ringrazio in redazione Mauro Del Corno, in regia Roberto Scaltritti. Buonasera a tutti da Enrico Brivio. Radio 24, la passione. Si sente.